Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Buona serata e ben ritrovati da Mirko Cavallin, nuovo spazio di ascolto su alcuni temi, incontri che si sono svolti in questo tempo nel corso dell'anno pastorale in Diocesi di Padova. Questo è un incontro piuttosto recente, 5 di maggio, la seconda delle serate organizzate dall'Osservatorio sul territorio nato 12 anni fa a Curtarolo. Lo scopo dei due incontri, svoltisi appunto per il Vicariato di Lima, è stato affrontare la questione centrale dei migranti a partire da una riflessione che è stata fatta nel primo incontro dal professor Romagnoni dell'Università di Trento e poi una riflessione in chiave biblica con Don Marcello Milani e l'esperienza concreta di accoglienza di Don Marco Galante all'ex monastero San Giacomo a Monselice. In questo spazio invece di questa sera voci di esperienze, sindaci del territorio saranno il primo cittadino di Curtarolo, Fernando Zaramella, che accoglie 15 migranti nell'ambito dello SPRAR, il comune ospita, non il sindaco direttamente, Luciano Salvò di Villa Franca Padovana, Paolo Tonin di Campo San Martino. Le voci sono moderate dal collega della Difesa del Popolo Luca Bortoli. L'introduzione sul tema, per riprendere anche il filo del primo incontro, con l'avvocato Marco Ferrero. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Questo è un tema ovviamente molto caldo. Io provo a darvi qualche informazione, qualche elemento di lettura un po' tecnico, cercare di non farla troppo noiosa, però appunto dopo la prima serata che avete avuto dove sono stati affrontati, è stato affrontato il tema attraverso quelle due lenti di ingrandimento, diciamo, si è pensato che chi ha organizzato ha pensato potesse essere utile dare anche qualche riferimento rispetto al fenomeno da un punto di vista delle norme, della legislazione, che poi non è altro che come dire, quell'insieme di regole che sono alla base del vivere civile, no? Di qualunque società. Naturalmente noi oggi siamo, come dire, qui, insomma, in Veneto, siamo in Italia, siamo in Europa. Quindi evidentemente anche questo fenomeno è regolato da una serie di normative che in qualche modo promanano da queste istituzioni in maniera anche non sempre semplice da ricostruire. No? Perciò, come dire, dovendo fare un'esposizione molto, molto breve, perché poi è più interessante secondo me magari recuperare alcune delle sollecitazioni, delle nozioni che io proverò a mettere un po' a disposizione, semmai anche sulla base di quello che è il confronto di chi poi da amministratore locale è chiamato a muoversi in una cornice appunto normativa che è di carattere internazionale, europeo, nazionale e un pochino anche regionale, un pochino perché in realtà la materia dell'immigrazione, quindi immigrazione e asilo, per dirla alla europea, per quanto riguarda la legislazione regionale, diciamo che le questioni che la legislazione regionale tocca, quindi disciplina, hanno a che fare più con la tutela della salute, un po' la formazione professionale, e poco altro. In realtà, quindi, la disciplina, le politiche migratorie le fa lo Stato. Ma questa è proprio tradizionalmente, perché lo Stato, come lo conosciamo noi, si definisce, addirittura si qualifica, non esisterebbe senza questa, come dire, connessione tra un popolo, che è l'insieme dei cittadini, un territorio e delle istituzioni che questo popolo si dà e che normalmente sono in grado di far, come dire, applicare le norme sociali, che sono poi norme appunto giuridiche, in quel territorio. Quindi lo Stato non è altro che un popolo in un territorio che si danno delle istituzioni e delle regole che tendenzialmente quello Stato è in grado di far rispettare. Il problema della Libia oggi, per fare un salto ma che è collegato e ci aiuta a capire, è che i famosi accordi per la riammissione, gli accordi per evitare questi flussi, come vengono chiamati, ci metto le virgolette, a flussi, e non sai con che fare. Lì hai, non hai un governo, cioè non hai un pezzo di quello che serve per dire che c'è uno Stato. Questo cosa ci serve per dire? Ci serve per dire che il popolo, che è l'insieme dei cittadini, non è l'insieme della persona, la popolazione, cioè coloro i quali sono legalmente residenti in un territorio, lavorano legalmente, pagano le tasse, in parte sono popoli, in parte sono persone che, non avendo la cittadinanza, lo Stato si permette, anche giuridicamente, di decidere se possono entrare o non possono entrare. Non esiste il diritto umano all'immigrazione per motivo di cercarsi un lavoro, per trovare una vita migliore, per sé e per la propria famiglia. Questa è una dimensione etica, una dimensione, diciamo, politica. E quindi qui si apre lo spazio alle diverse opzioni. Ma dal punto di vista giuridico, esiste un diritto fondamentale all'immigrazione economica. Esiste un diritto fondamentale invece a lasciare il proprio paese, se questo è un paese antidemocratico che ti perseguita, che ti discrimina e che quindi viola alcuni tuoi diritti fondamentali, che a livello internazionale, nel secondo dopoguerra, si è deciso che fossero la base di una società mondiale pacifica. Tanto è vero che la Convenzione di Ginevra, che è la base del diritto dell'asilo, del diritto alla protezione internazionale, è datata non a caso 1951. Allora, perché dico queste cose? Perché anche se questa distinzione è una distinzione un pochino anacronistica, però ci serve un po' per distinguere, no? Migrazioni economiche, istanze umane che rispettabilissime, no? Di trovare una migliore condizione per sé e per la propria famiglia, e questo spinge molto spesso le persone alla migrazione che infatti si definisce economica. Questo appunto non è un diritto, infatti gli stati decidono, mi servono, non mi servono, se mi servono, e decido quanti me ne servono, decido se farli entrare oppure no. Quelli che non mi servono stanno fuori, anche se sono altrettanto motivati positivamente, anche con qualche competenza da mettere a disposizione di quelli che abbiamo fatto entrare. Ecco i decreti flussi, le quote, no? Ogni 3 anni il governo fa una programmazione dei flussi d'ingresso e ogni anno fa un decreto flussi. Siccome c'è la crisi economica, ormai da quasi 10 anni, il decreto flussi non è stato più fatto. Cioè si è detto, ci bastano quelli che ci sono, non facciamo entrare degli altri. Al massimo facciamo entrare gli stagionali per l'agricoltura, le mele in Trentino, in Puglia, qualcosina per il turismo, ma non di più. Quindi di fatto i flussi, nel senso della programmazione dei flussi d'ingresso, in questi ultimi anni è stata sospesa, tranne per queste quote relativamente piccole di lavoratori stagionali. Dall'altra parte c'è la migrazione cosiddetta forzata, cioè di persone che invece lasciano i propri paesi non perché appunto aspirano a trovare una migliore condizione, ma perché o sono perseguitati per motivi politici, o sono perseguitati per motivi religiosi, perché fanno parte di una minoranza religiosa, magari cristiana, in un paese a maggioranza musulmana, o viceversa, perché sono perseguitati per motivi magari di appartenenza a un gruppo sociale. Per esempio, in alcuni paesi le persone omosessuali sono addirittura incarcerate, c'è il divieto legale proprio, penalmente sanzionato, di essere persone omosessuali e via dicendo. Naturalmente questa distinzione classica, migranti forzati, migranti economici, oggi è un pochino anacronistica perché ci sono tante situazioni in cui, come dire, la povertà è il frutto di situazioni spesso determinate da classi politiche corrotte, corrotte da chi? Magari da multinazionali nordamericane, europee, che sfruttano le risorse e che generano una diseguaglianza, condizioni di miseria che appunto si accompagnano molto spesso anche a conflitti che vengono sapientemente alimentati e che quindi rende difficile distinguere come una volta questa distinzione, fare questa distinzione. Anche perché, come dicevo, mentre migrare per motivi economici non è un diritto umano, ma come dire, è limitato da quella che è la discrezionalità degli stati, invece, appunto, dal 51 in poi, cercare protezione a causa di questo tipo di persecuzione invece è stato sancito come diritto fondamentale, anche perché molto spesso come dire, restare nei paesi d'origine significa rischiare la vita concretamente. E quindi questo è un diritto fondamentale. Naturalmente si apre un problema. Come facciamo a distinguere chi apparentemente si presenta nello stesso modo? Arriva, non essendoci più la programmazione dei flussi, non essendoci di fatto un canale di ingresso legale in Italia, perché se tu sei straniero e vuoi venire in Italia, che sia per motivi economici o che sia per motivi di persecuzione, non è che vai a iscriverti in una lista e qualcuno ti dà un documento per entrare. Tu devi, se hai qualche risparmio, metterti nelle mani dei trafficanti, pagarli e arrivare in Italia. Dopodiché dirai: io chiedo protezione. A quel punto c'è un sistema di protezione che è deputato a valutare individualmente quelle domande per distinguere il vero, diciamo, migrante forzato dal migrante economico che, poverino, magari avrebbe anche delle buone intenzioni, ma se non, il suo interesse non si sposa con l'interesse dello Stato a riempire i vuoti del mercato del lavoro, quasi sempre nelle posizioni, diciamo, meno appetibili, e questo interesse non è un interesse legittimato, e quindi non è un diritto, e quindi ti respingono. Ecco che allora esiste il sistema di accoglienza. Sistema di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale. Perché si dice protezione internazionale, non si dice più per i richiedenti asilo, anche se poi nel gergo molto spesso si parla ancora di richiedenti asilo politico. In realtà l'asilo politico è la vecchia matrice della Convenzione di Ginevra, che in realtà è un po' più articolata, perché non è solo l'asilo politico, l'esule politico che dall'est Europa cercava di venire da noi, diciamo così. Appunto, negli anni dopo la caduta del muro di Berlino c'è stata questa riconfigurazione a livello geopolitico, per cui appunto l'asilo si può chiedere anche per motivi religiosi, di appartenenza a una minoranza etnica o culturale, ma a patto che ci sia un fondato timore di una persecuzione personale. Poi appunto, siccome questa distinzione si è rivelata sempre più anacronistica, a un certo punto a livello europeo si è configurata la cosiddetta protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria viene riconosciuta a chi dimostra di avere un fondato motivo non tanto di una persecuzione personale da parte del governo o di un agente non statale, ma diciamo infiltrato nei poteri, diciamo, governativi, ma si riconosce a quelle persone che vengono da paesi e per situazioni per cui potrebbero essere sottoposte alla pena di morte o potrebbero essere sottoposte a tortura, o sono state sottoposte a tortura, oppure che si tratta di paesi in cui c'è una situazione di violenza generalizzata o addirittura guerra civile che mette a repentaglio la vita, non di tutti indiscriminatamente, ma di quella persona che per esempio abita in una zona dove questi conflitti hanno portato a uccisioni, a stragi, ad attentati, e questi attentati, diciamo, li hanno sfiorati, magari sono stati colpiti familiari oppure vicini di casa. Quindi diciamo che questa violenza generalizzata rispetto a quella persona che individualmente chiede la protezione si è già manifestata in un modo per cui anche a livello probabilistico, se questa persona ritornasse nel paese d'origine, rischierebbe appunto per la sua incolumità. Allora, dicevo, il sistema di protezione che cosa serve? Serve per dare la possibilità alle persone che arrivano di poter efficacemente, effettivamente, tentare di esprimere e documentare questa loro condizione, in modo da poterli distinguere dai migranti economici. Dico questo perché mi sarebbe piaciuto che ci fosse un prefetto, chiusa parentesi, perché l'accoglienza non è un'opzione solo etica, solo di carattere spirituale, religioso, perché se fosse così dovremmo immaginare che c'è una possibilità di costruire, per chi ci crede, per chi ha quel tipo di opzione, è un'accoglienza anche dei migranti economici che senza commettere reati ci provano, vengono qui, anche perché, ripeto, canali legali veri non ce n'è, per cercare di inserirsi nell'economia, per poi sperare in una delle tante sanatorie che in Italia hanno fatto tutti i governi, di centrodestra e di centrosinistra. 7 sanatorie nella storia italiana. Quindi siamo proprio trasversali. Invece no, non c'è un sistema di accoglienza per queste persone, eppure possiamo dire che non sono persone umane, che come dire, anche la loro dignità personale non merita di essere tutelata. Non c'è un sistema di accoglienza istituzionale, ci sono solo dei pezzettini in qualche modo, ci sono, non so, alcuni ambulatori medici, volontari, che garantiscono un po' di diritto alla salute, ma non c'è un'accoglienza strutturata. Perché c'è per i richiedenti protezione internazionale? Perché è un obbligo giuridico. Siccome uno ha diritto a dire io chiedo protezione e ha diritto a che questa domanda venga valutata appunto individualmente, certo, se le cose funzionassero, se ci fossero risorse sufficienti dedicate a questa cosa qui, i tempi di questa accoglienza dovrebbero essere relativamente limitati. Infatti, il sistema europeo dell'asilo prevede degli standard uniformi in tutta Europa che teoricamente sono, in salsa italiana, rappresentati dal sistema cosiddetto SPRAR, sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, che in teoria è un sistema che vede una collaborazione tra enti locali, ministero e ONG o cooperative sociali convenzionate attraverso tutto un bando pubblico che con tutta una rendicontazione, con delle competenze precise che questi soggetti devono mettere in campo. Siccome però questa questione evidentemente è una questione anche molto di carattere politico, o meglio, che ha un impatto dal punto di vista politico, succede che i comuni, cioè gli enti locali, come dire, disponibili a realizzare questo tipo di sistema, che è un sistema europeo uniforme, sono molto pochi rispetto ai numeri in cui questo fenomeno consiste. Quindi di fatto quello che è il sistema straordinario che dovrebbe servire per i primi 15-20 giorni, il sistema delle prefetture, è diventato un sistema ordinario. Tanto è vero che mi aspetto a breve una procedura di infrazione europea, perché noi formalmente abbiamo ratificato le direttive europee e siamo in un sistema uniforme. Sulla carta però, perché dal punto di vista concreto il sistema vero di accoglienza è un sistema residuale di carattere straordinario, un po' da protezione civile, in cui le prefetture, poveretti, vanno in cerca sul territorio di chi c'è per dare appunto una sistemazione, non direi neanche un'accoglienza, una sistemazione a queste persone. Quindi capite che siamo in una situazione, come al solito, mi viene da dire, un po' emergenziale, per un fenomeno che emergenziale non è. Perché non è che è una cosa di quest'ultimo anno, di questi ultimi due anni. Questa tipologia di fenomeno migratorio più collegato alla protezione internazionale che alla migrazione economica come l'abbiamo conosciuta negli anni 80-90, primi 2000, ce l'abbiamo almeno dall'inizio da 5-6 anni, emergenza Nord Africa 2011-2012, ma in realtà già da prima. Quindi ancora una volta purtroppo si riscontra una difficoltà di gestire in termini di politiche pubbliche, innanzitutto a livello centrale naturalmente, è un fenomeno che strutturale non è, pardon, che emergenziale non è, ma è strutturale, e che peraltro, a sentire il Dipartimento di Stato americano, non è destinato a ridursi non fra un anno, non tra due anni. Il mio amico Gianfranco Bonesso, che è il dirigente del settore immigrazione del Comune di Venezia, che tradizionalmente ha una storia molto, molto lunga su questa tipologia di accoglienza e quindi è considerata una buona pratica addirittura europea insieme al Comune di Milano, altre città molto grandi che hanno. Sono stati convocati non più tardi di 4-5 mesi fa a Washington, in ambiente NATO, dal Dipartimento di Stato americano, che ha messo insieme appunto i funzionari di queste delle politiche, delle maggiori città di accoglienza in Europa, e sostanzialmente viene fuori il dato che questo tipo di flussi dall'area, soprattutto dell'Africa subsahariana, che è quella che interessa più noi, ma potremmo fare altri ragionamenti in ambito asiatico, poi questi vanno in Australia, vanno in Giappone, quindi noi pensiamo di essere il porto d'arrivo di tutte le migrazioni del mondo, in realtà non è così. Comunque sembra, dicono gli statunitensi, che questo tipo di fenomeno è destinato a durare almeno 15-20 anni. Quindi o ci attrezziamo subito in termini, come posso dire, appunto di politiche strutturali, oppure rischiamo davvero di rincorrere qualche cosa che è più complesso di come viene rappresentato, che non è scevro di problematiche, anche di aspetti, potremmo dire, patologici, ma che va gestito appunto in un'ottica sicuramente un po' meno emergenziale di come siamo riusciti a fare fino adesso. Io mi fermerei qui, se siete d'accordo, perché credo che sia poi interessante, come dire, eventualmente approfondire alcuni aspetti anche delle politiche europee e nazionali sull'immigrazione e sull'asilo, anche con riferimento a diritti, doveri, quindi norme, a partire da quelle che sono poi le difficoltà concrete di chi tutti i giorni sul territorio, dall'amministratore locale, è chiamato a muoversi in una cornice che purtroppo è teoricamente molto esaustiva, perché ripeto, dal punto di vista normativo noi abbiamo tutto quello che serve. Poi però, dal punto di vista concreto, delle risorse allocate per rendere appunto efficaci questi sistemi, naturalmente c'è ancora molta strada da fare. Dico subito che non è un problema, dal mio punto di vista, diciamo, di giurista, che ormai si occupa da un po' di anni di queste cose, studiamo all'università, non è un problema di fare norme diverse da quelle che ci sono. Abbiamo un po' questa cosa, no? C'è un problema, arriva qualcuno che ci dice, beh, adesso facciamo una legge e risolviamo il problema. In realtà molto spesso è un problema di, appunto, allocare risorse per realizzare, fare i decreti attuativi, per realizzare le norme, che a volte sono migliori di quello che sembra. Quindi, mi fermo qui e cedo volentieri la parola. Grazie. Molte grazie per la chiarezza, per la precisione a Marco Ferrero, che ha introdotto proprio con un quadro preciso, circolare, quella che è la situazione normativa che sta alla base di questo fenomeno, no? Quali sono gli strumenti e come dovrebbero funzionare nella teoria per quanto riguarda il fenomeno migratorio, insomma, di cui ci occupiamo, che sentiamo così in maniera molto sensibile in questo periodo. Adesso proviamo ad arrivare sul territorio, proviamo a capire quali impatti, quali occasioni, lo diceva bene Cristian all'inizio, no? può avere sul territorio questo tipo di fenomeno. Li vedete bene seduti qui dal principio della serata, abbiamo tre sindaci, tre primi cittadini, a partire da Paolo Tonini di Campo San Martino, alla vostra sinistra, Luciano Salvodi di La Franca Padovana, qui accanto a me, poi il sindaco di casa, Fernando Zaramella, sindaco di Curtarolo. Allora, con l'osservatorio sono state individuate tre grandi questioni che noi poniamo a loro, a cui loro così risponderanno a turno, non una risposta così concisa, con minuti, 5 minuti per domanda. Dopodiché apriamo liberamente il dibattito. Le tre domande sono queste. Anzitutto, la complessità, la difficoltà di inserire l'altro all'interno della comunità. Effettivamente il fenomeno comporta delle problematiche. L'accoglienza non è così pronta, disponibile subito. Bisogna prendere delle decisioni, decidere se farla o non farla. Quali perplessità, quali difficoltà? La seconda questione. Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione a livello comunale, no? Per affrontare questa situazione e al limite per arrivare a una soluzione positiva della cosa. La terza questione, stanti così le cose, Marco Ferrero l'ha appena detto, non è un fenomeno così puntuale, è una cosa che il Dipartimento di Stato americano stima in 20 anni, quindi parliamo di decenni. Come immaginiamo nel futuro le nostre comunità? Tenendo conto anche di questo fenomeno, oltre a magari altri macro fenomeni che abbiamo, che sono visibili insomma nella nostra società, no? L'Istat per esempio ieri ci parlava dell'età media che sta salendo tantissimo, ma tenendo conto anche del fenomeno migratorio, come ci immaginiamo in futuro le nostre comunità? Io direi di dare la parola subito a Paolo Tonin, se può partire con la prima domanda. Ripeto, quante difficoltà e perplessità nell'accoglienza oggi? Il mio punto di vista è questo: inserire l'altro non può e non deve essere fine a se stesso, giusto per inserire qualcuno che arriva, ma l'altro deve avere innanzitutto i requisiti per essere accolto, e cioè provenire con certezza da luoghi di guerra o fuggire da bombe o situazioni di grave rischio personale. Per tutti gli altri, dal mio punto di vista, non ci può essere dopo naturalmente averli salvati se li troviamo in mare e così via, la strada, se non hanno i requisiti per rimanere qua, devono essere purtroppo rimpatriati. Vorrei a tal proposito evidenziare un particolare: se le risorse che vengono investite con questo sistema di accoglienza che noi abbiamo oggi fossero investite nei territori di provenienza, come si è sempre fatto da parte nella storia, cioè io ricordo che i missionari sono sempre andati a creare i presupposti vitali nei territori dove le popolazioni avevano queste necessità. E quindi avremo sicuramente un fenomeno, sarebbe sicuramente di un impatto estremamente minore e con conseguenze infinitamente meno pesanti sulle nostre popolazioni, sui nostri territori. È comunque lampante che chi è davvero profugo va ospitato e accudito con tutti i mezzi possibili, ma si tratta di una piccola parte di coloro che arrivano. Fonti ufficiali affermano che non sono più del 10% degli arrivi, quelli che davvero fuggono da come gli altri, sono, come diceva il professor Ferrero prima, cioè migranti economici che purtroppo non possono pensare di essere ospitati tutti nella nostra nazione. Cioè, è chiaro che più di un certo numero, e questi sono proprio la programmazione dei flussi, non possono arrivare. Ecco, io penserei di aver risposto insomma a questa prima domanda, non so se è il caso di andare avanti e porre le altre, magari in un secondo momento. Facciamo prima un giro di tutti e tre questi sindaci sulla prima domanda. Sì. Luciano Salvò. Sì, grazie. Io ti ringrazio anch'io e ringrazio l'Osservatorio per questo invito, che in qualche maniera non può non mettere, come dire, anche in una condizione di non eccessiva tranquillità, ovviamente, chi è da questa parte del tavolo, perché ci rendiamo conto che il tema, come dire, è delicato e scottante all'ordine del giorno e in qualche modo corre il rischio di mettere, a seconda della risposta che uno dà a domande precise o comunque all'idea che ha sul fenomeno, con il rischio di essere collocato da una parte o dall'altra, cioè viene considerato razzista da un lato o viene considerato, che ne so, buonista dall'altro. E quindi ci rendiamo conto anche di questo. Io ho ascoltato con attenzione l'intervento del professor Ferrero, il quale non fa una piega, se vogliamo, sotto il profilo teorico, è che ovviamente la risposta che adesso, conseguente alla domanda che viene fatta, richiede più, come dire, un'esperienza di carattere pratico e quindi in qualche modo chiama in campo, non so, il ruolo del legionario, di quello che deve fare poi la battaglia, conseguente alle strategie o alle mire, che ne so, di conquista disposte dall'imperatore. Io, al di là della opinione che in qualche maniera ricalca in parte quello espresso dall'amico sindaco di Campo San Martino per quanto riguarda ovviamente la logica generale sul fenomeno migratorio, mi limito a fare soltanto due brevissime considerazioni legate più all'esperienza pratica, quindi quotidiana, da persona che in qualche maniera viene coinvolta, anche se in questo momento nel mio comune non sono ospitati profughi cosiddetti o immigrati clandestini a seconda di come la si voglia vedere, insomma, o richiedenti asilo. Però ovviamente sono presenti immigrati che in qualche modo per certi aspetti rispecchiano le nazionalità di provenienza di tanti profughi che sbarcano quotidianamente sulle coste italiane. Mi rendo conto della difficoltà di gestire situazioni già presenti all'interno del territorio del comune, soprattutto in un momento in cui la crisi economica, che tutti quanti ci dicono è di carattere mondiale, per cui anche questo incentiva in parte, sottolineo in parte, i flussi migratori, lasciano ovviamente degli strascichi considerevoli all'interno delle nostre piccole comunità, colpendo prevalentemente in maniera indifferenziata tutti, anche ovviamente cittadini italiani, ma prevalentemente nazionalità straniere. Per cui ci troviamo a gestire anche costantemente, famiglie in difficoltà legate appunto alle dinamiche lavorative che non esistono più e che ovviamente insomma, hanno determinate necessità, determinati bisogni che insomma, sono, come dire, si sommano a bisogni che già in qualche maniera tradizionalmente i comuni sono chiamati, questi comuni sono chiamati a rispondere. E mi rendo conto anche, visto che la prima domanda è quella legata alla difficoltà di inserire, che questi, Villafranca ha una percentuale del 6,5% circa di residenti di origine straniera, immigrati, quindi non cittadini italiani, ma di origine straniera, anche se molti ovviamente di tante nazionalità stanno acquisendo oggi, essendo presenti da tanti anni, la cittadinanza italiana. Ma mi rendo conto che tante nazionalità di queste, soprattutto quelle che provengono da alcune aree del mondo, hanno, nonostante siano presenti da parecchio tempo all'interno della comunità comunale, hanno avuto più difficoltà di inserimento rispetto a tante altre, cioè ci sono più difficilmente o non si sono proprio per difficoltà assolutamente integrate con la comunità, pur essendo magari presenti da tanto tempo. Abbiamo ad esempio provenienti dai paesi dall'est che sono riusciti, forse anche per cultura più o meno, voglio dire, no, hanno, come dire, sotto il profilo religioso, sotto il profilo storico, sotto il profilo anche delle dominazioni del passato, no? Un minimo denominatore comune, hanno fatto parte, no? Qualcuno direbbe del vecchio impero romano, per cui in qualche maniera delle logiche giuridiche, delle logiche di convivenza civile, pur ovviamente con le differenziazioni, aspetti anche di fede, cioè, ci sono stati degli elementi che in qualche modo, no, li rendono più confinanti, ecco, diciamo così. Mentre ci sono altre nazionalità, soprattutto quelle provenienti magari dall'Africa, che per questioni di usi, di abitudini comportamentali, anche religiosi, insomma, non dobbiamo avere difficoltà di dirlo, timore di dirlo, hanno più difficoltà. Questo non necessariamente per un elemento di chiusura da parte della comunità ospitante, molto più spesso proprio per volontà anche di queste famiglie, di queste persone che hanno questa provenienza, che preferiscono in qualche maniera, insomma, continuare a praticare i loro usi, i loro costumi e quindi a vivere secondo le loro abitudini. Noi abbiamo anche tentato come amministrazione comunale, insieme anche con le associazioni, perché poi alla fine questi fenomeni non possono essere gestiti, no, da chi ormai non ha più risorse, perché anche lo Stato, è vero, il fenomeno migratorio rientra a pieno titolo nella responsabilità, no, dello Stato, dei governi nazionali, in questo caso del nostro governo nazionale, però poi scarica il problema sulle comunità locali, perché non è che, insomma, si gestiscono le dinamiche migratorie e si collocano a Montecitorio, Palazzo Madama, Palazzo Chigi, vengono ovviamente diluite e distribuite nel territorio. È ovvio che ci vogliono risorse, non soltanto le risorse legate, ai finanziamenti, alle cooperative, alle associazioni che in qualche modo si fanno carico dei famosi 30 rotti euro, 35 quelli che sono, per il vitto e l'alloggio, ma poi ci sono anche ovviamente, questi vivono sul territorio nel momento in cui vengono portati, non è che vengono, racchiusi, gli si dà da mangiare, da bere, da dormire e rimangono lì dentro, hanno anche altre esigenze, che sono le esigenze che in qualche maniera caratterizzano qualsiasi altro essere umano, indipendentemente dalla provenienza, dalla religione, dal colore della pelle e, dalle esperienze di vita. Abbiamo più o meno tutti, no, alcuni bisogni essenziali simili. E quindi lo Stato, che regola queste dinamiche, affama prima i comuni tagliando risorse, scaricando poi le risorse. Per cui, proprio per questo c'è bisogno, nel momento in cui ci sono queste realtà, di trovare, delle collaborazioni anche locali. Io, per le esperienze vissute fino a questo momento, non ho timore di quello che può arrivare. Io, dalla prefettura sono stato contattato, abbiamo avuto la possibilità anche di confrontarci con realtà anche ecclesiastiche locali, insomma. E dico che il fenomeno, non voglio essere partecipe, in prima persona del fenomeno. Se capita mi troverò, perché il sindaco non può esimersi dalle responsabilità di gestire, le situazioni che si trova sul territorio, però non voglio in qualche maniera essere partecipe, lo dico francamente, e condividerle sin dall'inizio. Questo perché come diceva Paolo Toni prima, non condivido come viene gestito a livello nazionale il fenomeno, non, come dire, non sono in grado, per disponibilità di strutture e per risorse finanziarie, a come dire, subirne l'impatto. Io ho letto sul giornale questi 52 immigrati profughi che dovrebbero arrivare nel mio territorio secondo le disposizioni della prefettura. Cioè, ci vogliono strutture, ci vogliono forze, ci vogliono... I comuni sono anche, voglio dire, enti diversamente uguali, nel senso che abbiamo tutti situazioni diverse, opportunità diverse, risorse finanziarie diverse, strutture diverse, opportunità anche di lavoro diverse. Il fatto che Villa Franca, che è cintura urbana di Padova, abbia il 6%, vado a chiudere subito, il 6% poco più di immigrati rispetto a comuni sempre dell'area che hanno, non so, il 12-13%, conseguenza anche del fatto che magari ci sono meno aziende, meno fabbriche, meno aree produttive, per cui ci sono anche delle condizioni diverse. Il fatto di dividere così sul territorio sembra quasi che si abbia a che fare con persone, no, non con persone, ma con, come dire, con delle cose che non hanno necessità ovviamente familiari, lavorative, eccetera, eccetera. Per cui ho l'impressione che, e questo volevo arrivare, insomma, che ci sia, se non in tempi lunghissimi, anche di fronte a parte della massa, insomma, che sta arrivando alla massa ingestibile, per cui parlare di integrazione con masse, con numeri così grandi, riesce anche molto difficile, però anche in numeri limitati, parlare di integrazione richiede tempi lunghissimi. Io ho visto in 10 anni che sono sindaco famiglie presenti nel mio comune che non si sono assolutamente integrate. Siamo riusciti in qualche maniera, proprio per cercare di dare una mano a loro, a trovare delle strade diverse per risolvere i loro problemi, facendoli andare anche con la solidarietà locale verso altri paesi. Qualcuno è tornato anche dal luogo di origine, qualche altro, dopo aver ottenuto difficilmente la cittadinanza italiana, l'abbiamo in qualche maniera agevolato verso la Francia, perché voi sapete che poi in Francia, se ci sono determinate caratteristiche, non si entra. Anche questo, voglio dire, dovremmo in qualche maniera affrontarlo, però mi rendo conto che l'integrazione oggi, se noi la immaginiamo nell'arco di brevissimo tempo, è praticamente impossibile. Potrà essere possibile la convivenza da confinanti, da, ne so, persone che si tollerano, che si sopportano, che continuano a fare comunque una vita parallela in termini di usi, abitudini, consuetudini, eccetera, eccetera, ma l'integrazione intesa come, come dire, assorbimento della cultura locale, l'amalgamento con la cultura locale, con le regole locali, con così anche i valori locali, la vedo in questo momento, se a breve termine, praticamente, se non impossibile, molto difficile sicuramente. Grazie. Fernando Taranella. Sindaco, buonasera, grazie per essere qua, agli ospiti innanzitutto e al pubblico. Credo che sia un'occasione molto interessante, molto ghiotta per parlare anche di un argomento di cui abbiamo un po', si può dire, pudore. Stiamo attenti anche chi fa politica, chi amministra, sta bene attento a non toccare mai questo tasto, perché è un tasto delicato, è un tasto che crea contrasto, è un tasto che mette in dissidio, è un tasto sul quale naturalmente ognuno di noi ha le proprie visioni e anche le proprie convinzioni. Beh, intanto mi fa piacere, quello che dicevo, mi fa piacere, parto da questa, così, da questa informazione che ci dà il professore quando dice il Dipartimento di Stato. Beh, il Dipartimento di Stato dica quali sono i flussi migratori, beh, certo che hanno voce in capitolo perché hanno provocati loro, quindi. Ecco, partiamo, quindi facciamo che la politica venga, perché sennò parliamo di, no, del nostro piccolo territorio, di via di qua, via di là, la frazione A, la frazione B, e non andiamo mai un attimo oltre, perché poi alla fine questi fenomeni non sono nati per una così calamità divina piuttosto che per una disgrazia, ma sono nati perché c'è stato un insieme, specialmente in questi ultimi 10 anni, anni terribili dal punto di vista. Pensate le grandissime crisi che sono sviluppate anche solo nel Mediterraneo. Facciamo un giro. Prima c'era l'Algeria, poi si è placata con un massacro interno. Poi siamo passati al Mali. poi siamo passati alla Tunisia, poi la Libia, distrutta per un capriccio di Sarkozy, che voleva così farsi rieleggere, non si è fatto nemmeno rieleggere, ha distrutto. Noi potremmo dire che Gheddafi era un bandito, sicuramente sì, era un dittatore, certamente sì, ma la Libia di ora è migliore della Libia di allora. Pigliamo l'Egitto. L'Egitto era un paese, era uno dei paesi turistici più importanti del mondo. Quindi vuol dire che noi, chi ha avuto la fortuna o l'idea di andarci, beh, è un paese nel quale tantissime persone andavano in Egitto. Nessuno percepiva l'Egitto come un paese difficile, un paese complicato. Perché l'Egitto diventa di conto un paese difficile e complicato? Lo diventa perché c'era un certo Mubarak, che non era certo un santo, non era certo una come si può dire, era un dittatore, ma mi domando, l'Egitto di oggi è più sicuro, più tranquillo, crea minore angoscia dell'Egitto di prima? Lascio dire domanda. E potrei girare a Turchia, potrei andare verso il Libano, potrei andare in via dicendo, senza andare un po' oltre, ma pensate alla Siria. Cioè la Siria era uno dei paesi più stabili al mondo, tanto che il papà passa il governo al figlio, come nelle monarchie. C'è qualcosa di più stabile nelle monarchie? No, da sempre, perché paradossalmente la democrazia è di per sé instabile, perché bisogna trovare il consenso. Ma la Siria no, e la Siria era una specie di monarchia, dal padre al figlio. E credo anche uno dei paesi più stabili che in quell'area c'erano. La Siria è stata nel giro di un paio di anni letteralmente rasa al suolo. Da chi? Perché? Per quali motivi? Noi possiamo stare qua una serata intera a ragionare su il problema del rapporto fra i musulmani di un tipo o dell'altro, ma alla fine se vediamo, scaviamo, scommettiamo che arriviamo al Dipartimento di Stato americano, al Dipartimento degli Esteri inglese, a quello francese, a quello russo, a quello cinese, punto. Dobbiamo cominciare a ragionare così. L'Iraq. Voi avete capito per quale motivo l'Iraq è stato, come dire, completamente destabilizzato? Pensate cosa ha significato la destabilizzazione dell'Iraq in quell'area così delicata. Ha significato il crollo di un equilibrio, no, che era basato sul rapporto Siria, Iraq, Iran, no, con diversità religiose, con passaggi anche molto legati alle condizioni culturali, economiche e quant'altro. Avere distrutto l'Iraq, avere distrutto la Siria, dopo aver raso il suolo, distrutto la condizione afghana, è evidente che come si può dire, che tutte le cose saltano. Io parto da qui perché altrimenti non si capisce il problema. Perché se noi ragioniamo sul nostro territorio, potremmo dire anche Curtarolo è un piccolo stato, ha i cittadini, ha delle regole, d'accordo? E ha un suo territorio, punto. Cosa significa? Che lo Stato di Curtarolo si dà delle proprie regole all'interno delle quali i cittadini devono in un certo modo, piuttosto. Noi abbiamo 12, mi pare, 10, dal 10 al 12, non ricordo, siamo nel mezzo, 11% di popolazione non autoctona, chiamiamola così. Beh, è un numero molto grande, molto grande. Ma mi chiedo anche, rispetto a questo, chi è che deve far fronte a questo tema? Perché scaricare dopo su... ragioniamo molto anche in termini di chi deve rispondere, la frase che diciamo solitamente è le risorse, come se i soldi riuscissero a risolvere questo tema. Io penso che se al Comune di Curtarolo dessero domani mattina 500 milioni di euro e gli dicessero così risolvi il tema dell'immigrazione, beh, un attimo dopo non avremmo risolto assolutamente nulla. Questo non è un tema che si risolve con i soldi. Questo è un approccio sbagliato. Questo è un tema che si risolve, non so se si risolve, ma si affronta, dal mio punto di vista, attraverso un approccio come questo. E so perfettamente, io sono consapevole del fatto che non è, come dire, un tema che possiamo affrontare noi qua dentro nel lunghissimo ma breve arco della nostra, come dire, no, attività di amministratore piuttosto che di vita o di mille altre cose, perché è un tema assolutamente molto più complicato. Sono esistite nel passato le migrazioni, hai voglia, prima qualcuno ha citato l'impero romano, emigrava come con la spada, radeva il suolo. Immaginate l'immigrazione che noi studiamo cosa ci comporta Immaginate solamente fino a 100 anni fa cosa comportavano le grandi migrazioni o gli scontri tra culture, i turchi con gli armeni. Ma per arrivare a qualche anno fa, qualche decennio fa, pensate a tutta la vicenda dell'Europa centrale, perché nella grandissima Germania di allora, che era l'inferno della cultura mondiale, no, la cultura in tutti i sensi, sia filosofica sia scientifica, esplode la Shoah. Pensate, in quanto tempo? 10 anni? Forse anche di meno. Cioè, questo mi fa paura. Cioè, quando i temi non si affrontano per il verso giusto. E com'è che normale che sia? E lo affrontiamo guardando il nostro piccolo, come dire, no? Così, catino nel quale viviamo, pensando che in questo microcosmo le cose si possono affrontare da sole. Non è così. Noi siamo un comune che ha diritto allo strato, uno dei primi. Se la Piazzola siamo stati i primi della provincia di Padova. Non è mica un banco, abbiamo deciso di aderire allo strato. Bene, problemi? Finora nessuno. Sono passati quanti? Sei anni, nessun problema. Zero problemi. Allora, è come questa cosa va vista, come va valutata, come va anche esternalizzata, come va promossa, come vanno informate le persone. E qui secondo me c'è una grandissima responsabilità di chi alla fine fa in parte politica, ma in parte anche informazione e in parte anche cultura, secondo me, perché sta venendo meno quella pilastro fondamentale che era quel livello di cultura che io chiamo intermedio, scuole medie e scuole superiori, nelle quali scuole noi per decenni ci siamo confrontati sulle idee, anche scontrandoci, ma abbiamo ragionato, con le scuole di ora che sono una specie di informatificio, non so come chiamarlo, punto, a volte nemmeno fatto bene come dovrebbe essere fatto. E quindi non c'è più una forma di confronto, una forma di dialogo. E io penso che sia un altro tema importante. Guardate, questo è un libro, Storia di Bruttarola. Questo è un libro che va dal 1900 al 1950. Questo è un libro di storia della emigrazione. Noi siamo emigranti. Siamo stati emigranti per 100 anni. Chi di voi non ha un parente che abbia emigrato da qualche altra parte? Nessuno. Tutti ce l'abbiamo. Quindi questo libro non è la storia della Siria, e neanche del Congo, questa è la storia di Bruttarola, che è stato per 50 anni, anche di più, quasi 100 anni, un paese di emigranti, che andavano a fare i peggiori lavori dove? In ogni parte del mondo, non andavano mica a fare i direttori generali, sapete, andavano a fare, potremmo dire, le badanti eravamo noi, adesso è di modo dire le badanti, no? Eravamo noi. Finisco. Dopo c'è interessantissimo, cioè, ci vorrebbero le ore per ragionare su questo. Pigliate anche il tema del lavoro, la crisi economica, quindi, no, io non credo affatto, penso io, per carità non sono mica, che la crisi economica sia, come dire, in qualche modo influenzata o influenzi il tema della, come dire, dei migranti, che non è così. Perché, guardate che, se andiamo poi a vedere i dati, perché un conto è parlare, non so chi di voi c'era la volta scorsa. Bene, c'è stata una bellissima relazione fatta da un bravissimo professore di Trento, dell'università, mi pare giusto, che ragionava sui numeri. Bene, quando noi passiamo dalla emotività ai numeri, ci accorgiamo che stiamo parlando di cose che non sono vere. Che non sono vere, la Finlandia c'ha 4 volte i nostri migranti, la Finlandia che sta nel polo nord. Questa è una terra di arrivo da cui se ne vogliono andare, non vogliono restare in Italia. Poi, se io vado a vedere, mi ricordo che c'era la volta scorsa i famosi innocenti, bene, l'Italia era, se non ricordo male, al 5° posto. Germania, Finlandia, Francia, dove ci stanno milioni e milioni di persone. No? Quanti sono stati gli sbarchi? 30.000? 30.000 per in quattro, in tre mesi? Bene, 30.000 per 4 sono 120.000. 37.000. Ecco, 37.000 per 4 sono 130.000. 130.000 sono due vie di Parigi. 130.000 sono due vie di Parigi. Neanche un intero pezzo di Baglietto. Due vie di Parigi. Quindi abbiamo... E dobbiamo quindi, secondo me, riportare il nostro ragionamento a delle cose concrete, perché altrimenti, ma non è qua per dire no, hai ragione, hai torto, perché se continuiamo a ragionare in termini di slogan, siamo tifosi, ma il tifoso vedrà sempre il rigore contro come una grande stupidaggine, come una grande violenza, vedrà sempre il rigore a favore come la cosa più giusta e più corretta, perché è un tifoso. Questi temi non si affrontano con le tifoserie. Grazie. Seconda domanda, partiamo allora da Luciano Salvol, sindaco di Villafranca. Compare, eccola qua. Riguarda gli strumenti per una soluzione positiva e quali possibilità di fare fronte a questa emergenza. Prego Salvol. Sì, se immagino che noi dobbiamo rimanere all'interno del nostro ruolo di sindaci, perché se facciamo un ragionamento di carattere, credo, generale, esuliamo, immagino io, no? Un po' anche dal ruolo che noi rivestiamo, dal motivo per cui siamo presenti qui questa sera. Però io condivido con il sindaco, col collega, amico sindaco di Puttarolo, che qualche considerazione di carattere generale va necessariamente fatta. La prima è che l'immigrazione non è tutta quanto uguale, cambiano i tempi, cambiano, come dire, le popolazioni, cambiano i luoghi di partenza, i luoghi di destinazione, cambiano anche, voglio dire, le regole che in qualche maniera disciplinano i punti di arrivo, per cui è vero, noi siamo stati siamo terra di emigranti, anzi molto spesso la ricchezza del Veneto è stata costruita dagli emigranti che sono andati a lavorare all'estero e poi hanno, con delle rimesse, no, portato delle ricchezze qui in patria. Però il fenomeno è stato disciplinato in maniera diversa nei punti di origine. Qui non stiamo assistendo a un fenomeno di immigrazione regolamentata, qui stiamo assistendo all'assalto, alla diligenza, al terreno, a questo ponte, no, che in qualche maniera si protrae verso il Mediterraneo, e quindi veramente è una cosa che è completamente incontrollata, al di là dei numeri. Dopodiché io sono d'accordo sempre con il collega sindaco che forse i dati statistici, come dire, ci fanno vedere un quadro completamente diverso del fenomeno e anche dell'accoglienza, se vogliamo. Però io devo anche dire che la statistica molto spesso porta anche questi nostri, il nostro paese, a fare delle normative proprio basate sui dati statistici. Le conseguenze, come dire, ricadono dopo su altri. Allora, come dire, la categoria degli esodati è venuta fuori da norme di legge fatte da questo paese, sicuramente sulla base, come dire, delle emotività e delle necessità momentanee, però in qualche maniera basate sempre su dati statistici. Per cui non è così, voglio dire, semplice risolvere la discussione sul fenomeno migratorio basandoci sul dato statistico, sulle norme generali e su questioni ovviamente anche di carattere teorico. La pratica poi è quella che si vive ogni giorno sul territorio, e io ovviamente nella mia qualità di sindaco non posso non essere, come dire, portavoce anche, come dire, dei disagi, delle difficoltà e delle problematiche che vivo tutti i giorni, perché insomma andrei oltre o mi fermerei prima del ruolo semplice, limitato e piccolo, se vogliamo, anche di sindaco di un comune che sicuramente, di fronte ai numeri che abbiamo sentito, voglio dire, è poca cosa, no? 10.000 abitanti nel panorama nazionale o nell'ambito del fenomeno migratorio. A me sarebbe, come dire, utile anche sapere sul periodo in cui sono presenti, come dire, i richiedenti asilo, che hanno sicuramente diritto di essere tutelati, perché quando si fugge dalla persecuzione, dalla guerra e ovviamente dal pericolo per la propria vita, credo che sia non soltanto norma di diritto, ma anche norma giuridica, ma anche norma di diritto naturale in qualche maniera, e quindi moralmente, eticamente doveroso in qualche maniera, come dire, tendere una mano e dare sicuramente tutto la massima disponibilità. Però stiamo parlando di inserimento, di integrazione. Allora, le persone che noi abbiamo accolto anche con questi strumenti le stiamo ovviamente proteggendo, come è giusto che sia, ma le stiamo anche inserendo, cioè trovano un posto di lavoro, hanno una dignità come esseri umani che li mette anche in grado di costruire una famiglia, di mantenere una famiglia, di avere una prospettiva di vita. Siamo territorio di passaggio, l'abbiamo detto, noi siamo ovviamente, come dire, il ponte di attraversamento, salvo poi ovviamente non avere le frontiere aperte, la Svizzera le chiude, l'Austria le chiude, la Francia a Ventimiglia la chiude, a meno che non ci siano cittadini di origine extracomunitaria che hanno la cittadinanza di uno degli stati membri. Cioè, alla fine il fenomeno impatta sul territorio italiano, in questo stato principalmente, che non riesce in qualche maniera, come dire, a coinvolgere sufficientemente la comunità europea nella disciplina, nella regolamentazione dell'immigrazione, non della gestione di chi è già qua, ma dell'immigrazione, della provenienza anche di questi, di queste uomini, di queste donne, che non fuggono tutti quanti dalla guerra, fuggono in parte dalla guerra, e i richiedenti asilo sono il 10%, quelli che effettivamente vengono definiti profughi sono il 10%, il 90% non fugge dalla guerra, va in cerca di condizioni economiche migliori per sé e per la propria famiglia. Teniamo presente che costa soldi questa roba qua, cioè non vengono quei poveri, vengono qua quelli che hanno la possibilità di pagare migliaia di euro. Qualcuno dice perché le famiglie di origine vendono, si impoveriscono, come dire, si riducono alla miseria per investire sul geni portati da un parente, da un familiare, da un figlio. Non lo so quale sia il motivo o la provenienza del denaro. Sta di fatto che questi arricchiscono ovviamente dei trafficanti che hanno visto nel traffico di esseri umani un business migliore rispetto al traffico di droga e pagano parecchi soldi ovviamente per essere in qualche maniera oggetto di arricchimento da parte di pochi. Allora è su questo che in qualche maniera, anche se si fa un ragionamento politico di carattere generale, non possiamo esimerci dall'affrontare. Qual è la soluzione? La soluzione ognuno ha la sua, sta di fatto che oggi la cosa certa è che nessuno la sta gestendo. Il fenomeno migratorio non viene gestito, ma viene subito, e viene subito, gestito in casa, cioè all'interno del territorio nazionale, proprio perché viene subito e ci troviamo ovviamente i profughi in casa, anzi andiamo a prenderli sulle coste. Fa specie che ci sia una nave di uno Stato comunitario che raccoglie davanti alle coste libiche dei profughi o comunque degli extracomunitari e, in dispetto delle regole del diritto marittimo che prevedono che vengano portati nel porto più vicino, vengano portati nel porto, uno dei porti più lontani, e stranamente uno di questi porti è proprio un porto italiano. In qualche maniera voglio dire che c'è forse non una gestione, ma una gestione del fenomeno migratorio che è nelle mani non del governo nazionale, ma di qualche altro. Ecco, gli strumenti a disposizione per andare alla domanda. Non lo so se l'ente locale ha degli strumenti a disposizione, ripeto, siamo diversi, siamo enti diseguali, per cui ognuno di noi, al di là, voglio dire, del fatto che non è sicuramente l'elemento finanziario l'unico sufficiente per cercare di dare delle risposte a un fenomeno di cui ci si trova il problema immediato di fronte sul posto. Non è sicuramente l'aspetto finanziario, però è vero anche che siamo, come ho detto prima, degli enti disuguali e non tutti abbiamo come enti locali le stesse possibilità, le stesse strutture, le stesse opzioni su cui scegliere. Sicuramente una cosa è fondamentale, il rapporto di rete, laddove è possibile, laddove è necessario, laddove non si può fare diversamente, diventa fondamentale per cercare in qualche maniera di affrontare queste situazioni. Rapporto di rete vuol dire associazioni locali, vuol dire sicuramente anche le parrocchie, vuol dire sicuramente anche gli enti locali. Nessuno può farsi bello dimostrando disponibilità all'accoglienza, scaricando poi il problema su qualche altro. Tutti devono essere partecipi della gestione del fenomeno, della risposta al fenomeno nel momento in cui è nel territorio. Questo sicuramente è indispensabile. Grazie. Carmella? Io penso che il sindaco, sia una figura, non che lo fa Fernando, è molto importante. Purtroppo molto vessata in questi ultimi tempi, perché una condizione generale di insoddisfazione, una condizione dettata da mille fattori, e poi alla fine si scarica su quello che è il, come dire, capillare terminale, quello che è più facile da contattare, da vedere, da con cui si può parlare di dissenso, e anche perché magari è antipatico, legittimo, perché la pensa diversamente da me, totalmente legittimo, che ne so io, possono essere tantissime, no, e variegate le persone. Però dico una cosa, il sindaco, io penso così, poi naturalmente mi annoio, meglio essere, come dire, bisogna essere sinceri in questi passaggi qua, no? Io parlo per me, voglio essere sincero fino in fondo. Io credo che nel momento in cui uno viene eletto sindaco, un attimo dopo, è sì sindaco del suo territorio, ma è anche un funzionario dello Stato. Non è una cosa russa dello Stato. Non lo è. Non possiamo, il sindaco non può esimersi dall'affrontare le tematiche, perché le tematiche non sono simpatiche, non portano voti o, che ne so, portano via voti. I sindaci sono, come dire, hanno una responsabilità che non è solamente etica, è anche etica, secondo me, lo deve essere, è anche morale, lo deve essere, senza confondere, no, elementi di ideologia, però ha una responsabilità di ordine politico, tecnico, giuridico, che fanno sì che il sindaco sia sindaco, altrimenti sarebbe un funzionario di una burocrazia come tutti gli altri, ma non è così. Non può non affrontare il tema, non può mettersi la mano davanti agli occhi e dire a casa mia il tema, il problema non esiste o non deve esistere, quindi non voglio. E perché dico questo? Perché anch'io, cioè, io ho mille dubbi, non è che sono poche certezze nella vita, ho migliaia di dubbi, quindi sono sempre in difficoltà quando si deve decidere, affrontare un tema, perché inevitabilmente il tema è sempre, tanto meglio questo tema, è un tema complesso, ma molti altri temi sono complessi. È anche chiaro che è un tema che non lo affronti se ammesso che ci sono un sacco di buche, certo, ci sono le buche, se fossero i soldi, le buche non ci sarebbero. Punto. D'accordo. Ma un tema di carattere sociale, che non è semplicemente l'immigrato, sapete, è in generale, non si affronta con la logica dei soldi. Salvo che i soldi servono alla vita sempre, ovviamente. Ma lo si affronta anche in termini di strutture, di organizzazione, di prospettiva e anche di mettere in relazione i soggetti che su quel territorio operano. Faccio un esempio. Ma perché il tema della migrazione deve essere in capo solamente al comune? Perché non le aziende? Ma perché un imprenditore che si porta a lavorare l'immigrato alle 8 di mattina lo scarica fuori dall'azienda alle 5 del pomeriggio e tutto il resto è a carico della società, cioè abitazione, cultura, scuola, e non me ne importa nulla, io comunque porto da casa il mio. Io non so, io sono tra quelli che sono convinto che le imprese sono un elemento fondamentale, essenziale, tanto più nella nostra zona dove ci sono più imprenditori che cittadini ormai. Quindi, come dire, è chiaro che l'impresa è fondamentale. Ma l'impresa anche, l'abbiamo detto, vi ricordate anche negli anni passati, nei nostri incontri di Natale, l'impresa ha anche un ruolo sociale fondamentale. Bene, questo ruolo sociale come lo affronta? Come lo affronta? Cioè, è corretto che, ma non sto additando qualcuno, io ragiono sempre in termini complessivi. La scuola, il mondo della scuola, e potrei citare mille. Pensate al mondo della sanità, ci sono tanti elementi che fanno, come dire, di un territorio qualche cosa di un insieme che abbia un senso. Il sindaco è in qualche modo il perno fondamentale, semplicemente questo direi da tutto, ma è un elemento essenziale. E quando si affrontano questi temi, si devono affrontare anche con sincerità. A volte si deve scontrare con delle imbecillità astronomiche. Voglio dire, visto che siamo in parecchi qua dentro. Allora, esce su Facebook una notizia di un idiota, non ho problemi a dire che sia un idiota, quale dice? Guardate che a Puntarolo arrivano 50 immigrati. Dove? Dice, informo, lei dice, ho sentito dire, informo, io ho la verità, informo, dico la Bibbia, informo che arriveranno 50 immigrati. E il nostro emerito sindaco ha detto che bene, che bello che è avere 50 immigrati. No, quello rispondeva, no, vai, sono 100, non 50. Beh, insomma, il sindaco dove erano diventati 500. Ho trovato una persona fuori il giorno dopo al bar, mi ha detto che arrivano in 1000. Non solo, ma sanno anche esattamente dove, il posto, come, quando, cioè, quindi, quando, tu come fai a far fronte all'imbecillità? Questo cos'è che crea? Crea un disagio sociale. Non è arrivato una persona nel frattempo. Ma si è scatenata questa nuova vox populi totalmente basata sul nulla, sul niente. Ma questo idiota deve essere additato come tale, perché questo è molto più pericoloso di, come dire, di un immigrato che sta in giro, perché sta creando una tensione sociale, stiamo creando l'unto, questi sono gli untori del Manzoni. Cioè, questo è l'elemento sul quale bisogna stare molto attenti. Finisco con una... vi racconto una cosa che stasera, ma c'erano altre persone, quindi mi fa piacere raccontarlo di nuovo. Qualche mese fa mi chiama la trasmissione nazionale, mi dice, venerdì, mi dice: sindaco, ci sarebbe da fare una trasmissione, da voler invitare una trasmissione nazionale per, come dire, così, sul tema immigrazione, sul tema migranti, quindi ci farebbe molto piacere la sua partecipazione. Cioè, tutti, 8.000 comuni vengono qua, vabbè, dico, mi fa piacere, vengo, nessun problema. Bene, questo è venerdì pomeriggio. Bene, domani a mezzogiorno siamo lì da lei e andiamo, perché voi avete fatto gli immigrati, certo, abbiamo degli immigrati, fa, ah, va bene. Quindi vedremo lì da lei e andiamo insieme, fa, come dire, a vedere questo luogo, va bene. Insieme al vice sindaco Eddie Bazan, andiamo il giorno dopo, c'è passato mattina, dico, siamo mai andati a vedere lì, per me siamo stato problema. Tra l'altro quest'anno, lo dico sempre, io la sfortuna di abitare proprio di fronte a uno degli agenti che in questura sono responsabili proprio del tema immigrazione. Beh, andiamo lì, sono, mi pare, c'è una decina di ragazzi, cristiani, musulmani, neri, di origine araba, maschi, età fra 20 e 23, 24 anni. Mettiamo, era verso 11 di mattina, un paio pregavano, un paio leggevano, altri facevano da mangiare. Tutti questi andavano a scuola di italiano, mi pare 8 o 7 su 10 lavoravano presso delle aziende agricole. Dico, cioè, una casa normalissima, casa mia, casa vostra, alle 11 di mattina di un qualunque sabato, di una qualunque giornata della settimana. Mi richiama, dopo, insomma, verso le 11, il giornalista mi fa: allora sindaco, ci vediamo fra un'ora. Ma sì, va bene, ho anche aspetto, naturalmente ci sono problemi da voi, fa. Guarda, francamente problemi, no, sì tanto, insomma, no. Ah, non ne avete problemi? No, fa, non abbiamo, cioè, non abbiamo problemi gradanti, niente di particolare. Ci sono magari dei vicini che tra di loro si creano molti più problemi di quelli che avevano avuto quella con. Beh, ah, beh, un attimo, la richiamo fra un quarto d'ora, mi dice. Mi richiama fra un quarto d'ora e dice: guarda, non ci interessano i comuni dove c'è un problema, solamente quelli nei quali ci stanno i problemi. Poi immaginate che un giornalista mette davanti 10 persone, crea un grand'angolo, sembrano 10.000, qualcuno ci mette il bel cartello, non ho scritto, e poi pensate alla responsabilità che ha l'informazione sulla destabilizzazione sociale di questo tema che rischia di produrre. Grazie. Paolo Perini. Grazie. Allora, io mi ero ripromesso di rispondere in modo puntuale, diciamo, alle domande, no? Ma però vedo che il dibattito effettivamente si sta un po' così elevando, diciamo, no? Allora vorrei anch'io dire la mia, insomma, diversità, i temi così. Innanzitutto vorrei ricordare che diversità c'è fra questo tipo di migrazione e l'immigrazione che i nostri nonni hanno fatto. Io ho in famiglia qualcuno che andava in Belgio in miniera piuttosto che altri, ma cioè era un sistema di emigrazione innanzitutto controllato, perché c'erano le richieste degli stati che chiedevano delle persone che andassero a lavorare, e andavano a lavorare, gli facevano lo screening, li mettevano magari in quarantena, li facevano questo qua, e dopo andavano per lavorare. La nostra immigrazione è nettamente diversa, noi andiamo a prelevare persone direttamente alla fonte, ultimamente. Li stipendiamo con costi nostri a 35 euro al giorno e così li mettiamo qua senza un lavoro, senza una dignità, senza una programmazione. Cioè, è questo il sistema di fare migrazione. Io credo che non sia questo, ecco, almeno dal mio punto di vista, anche dal punto di vista di chi scappa, che futuro ha in queste nostre, quando si trova in una caserma di 1200 persone che poi gli mancano tutto. Poi c'è un altro tipo di immigrazione, è un'immigrazione che non è l'immigrazione della famiglia di colui che viene per mantenere la famiglia. Molti sono, io li ho visti, anche qua nei nostri territori, sono ragazzi giovani, quasi tutti maschi, e quindi qui mi fermo, ecco, ritorno, diciamo, a quello che è la risposta dal mio punto di vista a quella che è la domanda. Dopo vedo nel dibattito se ci sarà, mi riservo di rispondere, insomma, a queste a alcune cose, ma ecco, la risposta appunto alla domanda numero due. Io penso questo, no? Gli strumenti che si devono applicare per risolvere il problema, ma il primo l'avevo già accennato prima, è questo: chi ha diritto deve essere aiutato, chi non ha diritto purtroppo non può restare nel nostro territorio, dal mio punto di vista, se non dopo avere appunto naturalmente rifocillato e aiutato chi è in pericolo di vita e così via. Quindi il primo strumento è proprio quello del rimpatrio, deve essere fatto il riconoscimento, se c'è il titolo si da qua, e se no si vengono accompagnati alle frontiere. Ove possibile. Giunta evidente, infatti, che non è possibile accogliere tutti indiscriminatamente, soprattutto in relazione alle difficoltà economiche che noi stiamo attraversando, insomma, che vedono una larga parte della popolazione italiana sotto la soglia di povertà. Noi abbiamo oltre 4 milioni di gente che è sotto il livello minimo della sopravvivenza. Quindi, cioè, io credo che uno Stato degno di questo nome si debba prima far carico dei suoi cittadini, di quelli che magari fino a qualche anno fa pagavano le tasse, che hanno contribuito a creare il benessere che ci ritroviamo. Quindi questi, secondo me, hanno la priorità rispetto a coloro che arrivano, con tutto rispetto per chi arriva, insomma. Ecco, quindi se non c'è possibilità di assicurare l'aiuto necessario, cioè dobbiamo prenderne atto, e quindi chi viene deve essere altresì scontato che coloro che invece dimostrano la loro provenienza da zone di guerra o che hanno altri motivi, insomma, devono essere inseriti in strutture adeguate, quindi dobbiamo avere delle strutture e vanno aiutati e supportati nell'integrazione attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto perché bisogna andare, perché ci sia dignità ci vuole il lavoro, l'apprendimento della lingua e l'integrazione in un contesto culturale che devono però accettare e condividere. Cioè è chiaro che chi arriva qua da noi non è che viene a dire il crocifisso non mi piace molto, me lo tiri da parte, il presepe è una roba che non mi piace tanto, le canzoncine di Natale non vanno bene, cioè, voglio dire, per carità, noi siamo un popolo unito, un popolo che accetta, che vuol bene alla gente, lo dimostriamo perché soprattutto noi veneti siamo al primo posto per accoglimento, per volontariato, per aiutare gli altri, è un dato di fatto, insomma, questo non lo invento io. Però un momento ci dobbiamo anche far rispettare, perché a volte ci sottomettiamo a delle cose che non sono, insomma, condivisibili. Grazie. Grazie. Bene, allora siamo all'ultima questione. I sindaci chiedono una risposta abbastanza precisa sul punto, proprio per andare a chiudere questa parte interamente dedicata a loro, per non consumare effettivamente troppo tempo per quello che è il dibattito. Io penso, spero, che più di voi abbiate già alcune domande, alcune questioni, quindi ultimo giro di risposte e poi preparatevi ad intervenire. Questa volta partiamo dal sindaco Zaramella. La domanda è quella che vedete lì: come immaginiamo in prospettiva la nostra comunità? Come le immaginiamo, come ci piacerebbe? Perché è una domanda un po' trabocchetto, no? Cioè, non lo dico in maniera simpatica, perché quello che noi vorremmo non è probabilmente quello che sarà, poi dipende sempre dal punto di vista, chiaramente, ma è quello che noi siamo di fronte alla mutazione genetica del sistema, del lavoro, delle comunicazioni a livello generale, complessivo. Quello che una volta attraversare il Mediterraneo ci si metteva, a parte che è discutibile, perché poi Giulio Cesare ha fatto un ponte sul Reno in 28 giorni e noi ci mettiamo 28 anni per fare un viadotto, quindi tutto è molto, però insomma, a parte questo, come le immagino? Io le immagino, sono una persona molto razionale, anche se ho le mie emozioni come tutti, veramente, E non posso che immaginare un mondo nel quale alcuni, come dire, elementi che facevano parte della nostra... Io non vorrei come essere capito male, ma è evidente, io sono tanto quanto voi, nato in queste zone, vivo qua, 300 anni, probabilmente morirò qua, non lo so, ok. Bene, se voglio dire, è evidente che questa è la mia, come dire, la mia condizione normale, quindi io mi trovo bene o mi trovavo bene in quel famoso mondo che è scomparso, no? Però mi chiedo, ma è scomparso perché sono arrivati gli immigrati negli ultimi 10 anni o è scomparso perché comunque doveva scomparire? Perché noi a volte, non so se confondiamo, come dire, quel mondo un po', no, bello, simpatico, dove sembrava che tutti ci volessimo bene, tutti, che era, non so, 20, 30, 40 anni fa, 50 anni fa, della solidarietà, della... Io provengo da una famiglia contadina, come credo la gran parte di noi. Era una famiglia, non so, abbastanza importante, avevo un bel po' di terreni. Io non mi ricordo mai, cioè non mi ricordo una sola giornata senza che ci fosse il poaretto, se diceva, che mangiava dentro l'insieme con la famiglia. Io c'era sempre il poaretto nella casa. E il poaretto c'era una specie, come il crocifisso che c'era il poaretto. Cioè, come dire, incredibile, allora dico, quel tipo di mondo non c'è più, punto, non è che non c'è più perché arrivano i nigeriani, arrivano i siriani o arrivano, ne so io, gli ucraini, non c'è più perché è passato. Quale sarà il mondo futuro? Ma io vedo qua qualche genitore che ha i figli che stanno studiando, lavorando molto lontano da qui. Qualcuno ha, come dire, con figli che veramente bravi, bravi, che fanno lavori incredibili, incredibili. E vorrei quasi ribaltare la domanda a loro, ma come vi immaginate il mondo dei vostri figli? È un mondo fatto di, come dire, nel quale sarà molto facile muoversi. Nel quale sarà molto facile cambiare lavoro, sarà molto facile anche purtroppo essere esclusi dal lavoro, per tal motivo, perché c'è un micidiale meccanismo di concorrenza. E via di sempre. Cioè, quindi non è un mondo ideale, è un mondo che sarà quello, come dire, sicuramente di confronto, chiamiamolo multiculturale, chiamiamolo anche multietnico, chiamiamolo come volete, ma lo è già, non è che ce lo stiamo aspettando, esiste già, in qualche modo ci stiamo già, come dire, così, collegando, mischiando. Non dico che questo sia in sé positivo o negativo, non so, io non sono un filosofo, io faccio il sindaco in questo momento. Quindi io dico che questo mondo nel quale c'è questa condizione, Puntarolo, che ha la sua storia, come ce l'ha Villa Franca, come ce l'ha Campo San Martino, quella storia, quella condizione sociale, quella struttura organizzativa, quello che c'era, per definizione non ci sarà più. Ma non sto dicendo questo sia bene o male, ma questo sarà, perché nemmeno entriamo in un'azienda di Puntarolo, ma voi avete visto quanto è cambiato negli ultimi 10 anni rispetto a un'azienda di 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa? Come dire, questo è l'emblema del cambiamento della società, se vogliamo. Non è applicato alla macchina, adesso applichiamolo all'uomo, applichiamolo alle condizioni sociali, che ti senti. Cioè, quindi io mi immagino che sarà, secondo me, anche una sfida. Una sfida, io parlo per me, e in questo momento tiro via la mia, permettetemi un secondo, la mia veste da sindaco. Io parlo per me, credo che sia un mondo sicuramente dove bisognerà essere capaci di sfidare gli altri, ma io credo anche un mondo, vorrei io avere, per definizione vorremmo tutti avere 20 anni in meno, no? Ma io vorrei davvero avere 20 anni in meno adesso, per poter, come dire, affrontare e avere anche sicuramente le difficoltà, ma anche quelle opportunità che 20, 30, 40 anni fa io non ho avuto. Noi, la maggior parte di noi qua dentro non ha avuto. Poi, naturalmente, dipende da molti fattori. Io credo che poi la società assolutamente si ribalta sempre con la stessa cosa. Il meccanismo della differenza sociale, guardate, ho finito, non dipende dall'essere in un mondo con più o meno immigrati. Dipende da fattori economici molto più ampi, molto più complessi, molto molto diversi da quelli che pensiamo noi. Perché se voi oggi immaginate solamente, l'immigrato porta via il lavoro italiano, non, smettiamo di raccontarci questo, perché lo sappiamo che è una balla. Lo sappiamo perché nessun italiano vuole fare la badante. Nessun italiano vuole fare quei lavori che adesso fanno, come adesso vorremmo, adesso perché ci fa comodo magari in qualche caso. Ora, cioè, affrontiamo le cose con più onestà, anche intellettuale, e andiamo davvero a vedere con i numeri quanti, le case, gli appartamenti, bene, partire da qua, da piazza di Curtalo, arrivare all'incrocio di Turcato, voi siete tutti da questa zona, cioè sono 3 km, ci sono 14 case vuote, 14 case singole vuote. C'è emergenza abitativa? Non c'è, non è mai esistita. Quindi non è vero che si porta via le case. Grazie. Il signor Cosani? Dare due cose che riguardano proprio specificatamente il comune di Campo San Martino. Allora, per tradizione storica, il comune di Campo San Martino è arrivato ad avere anche il 12-12,5 di non Campo San Martinesi, diciamo, ecco, di extra di persone da fuori, per le industrie che ci sono, che hanno anche attirato personale. Quindi le problematiche dovute alla all'immigrazione le conosciamo da tempi notevoli. Qui bisognerebbe, ecco, mi sarebbe molto piaciuto che ci fosse stato questa sera Sua Eccellenza il prefetto, perché certe cose sarebbe anche giusto riferirle a coloro che dopo devono riportarle ai livelli governativi e così via. Quindi, cioè, le problematiche, cioè, certe situazioni comportano quando ci sono sfratti con figli minori, quando ci sono questo tipo di cose qua, non possono essere imputate e la responsabilità affidata al sindaco. Perché io mi sono sentito dire dal prefetto, quando avevo uno sfratto con due figli minori, sono andato a vedere cosa si poteva fare, perché questi erano in strada, e il signor prefetto mi ha detto: guardi sindaco, le insegno io come fare, lei faccia pure a meno di illuminare le strade, non metta a posto i marciapiedi, spenga pure il riscaldamento delle scuole, ma quei bambini sono a carico suo. Allora io qui dovrei dire che bisogna cominciare a ragionare a livelli alti di governo su queste cose qua, perché il sindacato locale purtroppo non ha la possibilità di farsi carico di un fenomeno così grande come il fenomeno della migrazione. Cioè, io qua sono con due colleghi, credo che siano d'accordo con me, abbiamo le mani legate, cosa possiamo fare noi? Tramite gli uffici dei servizi sociali dare qualche contributo, ma più di questo non si può fare. Ritorno alla domanda. Che cos'è, dice, come immaginare in prospettiva cosa? La comunità che immagino io in prospettiva è sicuramente una società più aperta, è inevitabile, oggi ci si sposta nel mondo nel giro di 6 ore, 50 anni fa, 60 anni fa ci volevano mesi, se non anni e così via, quindi è logico che l'interscambio culturale delle popolazioni dovrà prevedere nel futuro delle società che si muovono, che si integrano e così via. Però deve essere fatto in maniera costruttiva, in maniera anche coordinata. Non può essere lasciato all'improvvisazione questo. Qual è il collante che c'è? Allora, io vedo questo. Cioè, le comunità di immagine costruttiva è sicuramente una società più aperta anche ad altri popoli, ma l'elemento di unione tra di essi dovrà essere sempre improntato al rispetto della cultura del paese ospitante e deve avere alla base un accoglimento dignitoso e umano. L'accoglienza deve avere alla base la possibilità di avere intanto un lavoro quando si va in un'altra nazione, in un altro popolo, o si va per studiare, ma questi sono appunto i fondamentali. Aspetto quest'ultimo, che nell'attuale situazione però che stiamo attraversando noi, economica e sociale, dove purtroppo il lavoro manca anche per molti dei nostri concittadini, rende complicato poter ospitare chiunque indiscriminatamente. Gli sbarchi controllati, avvenuti sino ad oggi, hanno contribuito ad aumentare delinquenza e criminalità. Cioè, io credo che nonostante ci venga detto che la delinquenza è in diminuzione, la percezione, ma anche la realtà, è perché tanti non vanno neanche più a denunciare la cavolata, la roba di poco conto. Quindi noi rischiamo davvero di trovarci un mondo di delinquenti, perché mi sembra chiaro che chi non ha i presupposti minimi per la sopravvivenza cercherà con mezzi leciti o meno di soddisfare i propri bisogni vitali. diventando di fatto molto spesso merce. Questi che arrivano diventano merce di delinquenti, di gente prezzolata che c'è, e quindi sono appetibili per la criminalità organizzata, cosa questa che è già oggi evidente. Quindi bisogna che siamo davvero molto e molto attenti, perché cioè, è vero che l'immigrato non ruba il posto all'italiano, che le badante non le fanno gli italiani. Io ho una badante anche italiana, se vogliamo, per mia madre. Cioè, tanto per dire, perché oggi anche gli italiani che sono a casa vanno in cerca del lavoretto, anche umile. Quindi sarei un po' attento a dire che cioè, gli italiani non vogliono più fare certi lavori. Oggi sono ragazzi laureati che si adeguano a fare i babysitter. Io ho la compagna di mio figlio, tanto per dire, che è laureata in psicologia, che va a fare la barista per raccontare, perché sennò non si vive mica. Cioè, quindi attenzione che quindi gli italiani oggi sono anche disponibili a fare i lavori anche più utili. Ecco, detto questo, insomma, credo che questa sia la società che dovremo affrontare in futuro, con l'integrazione che però deve essere organizzata. Cioè, l'improvvisazione che abbiamo noi oggi in questo mondo che viviamo, io non voglio fare politica adesso, ma devo comunque dire che non stiamo gestendo assolutamente niente se non il primo soccorso per salvare vite e così via, con anche le polemiche che vengono fuori su questi giorni qua, che poi lasciano un pochino pensare. Grazie. Grazie a Paolo Tonin e grazie a tutti e tre i sindaci qui presenti, perché comunque sono seduti al... Sono soltanto due battute. È vero, qui questa sera doveva esserci il prefetto, perché il prefetto è un funzionario dello Stato, è nominato dal governo ed è pagato dallo Stato. I sindaci sono eletti dalle comunità e sono pagati dai bilanci delle comunità, per cui abbiamo sicuramente funzioni diverse, responsabilità diverse. Il prefetto non è tenuto a rendere conto alla propria comunità. Al di là del consenso o non consenso, il sindaco è tenuto in qualche maniera a confrontarsi con la propria comunità, indipendentemente dalla sua idea, dalla maggioranza dei cittadini che l'ha eletto. Per cui sotto questo profilo abbiamo anche delle funzioni un po' diverse. Non possiamo prescindere, come invece si permette di fare qualsiasi prefetto, il quale esegue gli ordini del governo, perché viene nominato dal governo e risponde al governo. Il prefetto è la rappresentanza del governo nel territorio della provincia, questa è la dimensione della prefettura. Il sindaco svolge funzioni anche pubbliche di governo, di rappresentante dello Stato, più che di governo, di rappresentante dello Stato, ma è comunque, come dire, punto di riferimento, perché è eletto dai propri cittadini. Da questo assolutamente non può prescindere, questo deve essere chiaro. Io faccio soltanto, qui vedo qualche capello bianco, qualcuno insomma non ha più neanche quello, sicuramente riusciamo a ricordare alla fine degli anni 80 il fenomeno degli immigrati albanesi. Adesso non so se ci siano albanesi in sala, chiedo perdono sin dall'inizio, però io l'ho vissuto quel fenomeno lì. Io mi ricordo ancora le immagini dei, insomma, queste navi, no, cariche di albanesi, è caduto il regime, hanno aperto le carceri, insomma, alla fine i miliardi della lotteria dispensati da Raffaella Carrà, come dire, hanno catturato l'attenzione degli albanesi, ce li abbiamo dall'altra parte del mare, ma non siamo soltanto noi confinanti con l'Albania, questi qua sono partiti e sono arrivati tutti quanti in Italia. Il governo, allora, ha convinto tutti quanti i sindaci, vorrei dire quasi obbligati, ma insomma c'è stata anche la promessa, no? Voi vi prendete un certo numero di albanesi, in questo caso di profughi, chiamiamoli come vogliamo, perché scappavano da una terra dove c'era fame, con la caduta di un regime tra l'altro, quindi non c'era neanche più il regime, c'era soltanto confusione, e vi diamo 50.000 lire, allora, c'erano ancora le lire, a persona, no, che voi ospitate. Io mi ricordo, la comune, insomma, giovane consigliere comunale, allora no, forse non ero ancora consigliere comunale, però già bazzicavo l'ambiente, abbiamo trovato un'ex scuola, li abbiamo ospitati, li abbiamo mantenuti per parecchi mesi anche, insomma poi alla fine si sono creati anche l'alcova, perché ripeto, hanno anche esigenze umane che vanno oltre l'alimentazione e l'ospitalità, e quindi sempre è successo un po' di tutto, abbiamo fornito anche i mezzi di locomozione, le biciclette, ce le hanno riportate perché vedevano quelle nuove circolare, volevano anche loro, giustamente quelle nuove, non erano abituati al concetto, no, che quelle nuove venivano comprate con il sudore del lavoro, per cui culture, mentalità, abitudini anche diverse, perché vivevamo in territori diversi prima. Ricordo quando ci siamo resi conto, come amministrazioni comunali, che il governo ci aveva preso in giro. Le 50.000 lire ogni albanese ospitato non sono mai state date ai comuni. Nel momento in cui ci siamo resi conto che noi continuavamo a pagare con i soldi dei cittadini l'ospitalità e il governo non rispettava i patti, abbiamo deciso di trovare un lavoro. Allora c'era lavoro, c'erano fabbriche, e quando siamo andati a dire ragazzi è finita la partita, diamo il lavoro, questi sono scomparsi. Non, io non ho più avuto, e il sindaco di allora non ha più avuto notizie dalla fine che hanno fatto gli albanesi ospitati dal comune di Milano. È il periodo, se voi ricordate, in cui alcune attività non propriamente lecite hanno avuto una recrudescenza, si sono acuite in termini numerici. Questo non per dire che ci sono, voglio dire, dei disgraziati o delle nazioni disgraziate. Questo per dire che a seconda della provenienza, anche delle nazionalità, come dire, si caratterizzano anche alcune fattispecie che sono previste dal codice penale, per cui chi proviene da una parte ha più o come meno resistenza, ecco, diciamo così, per non essere tanto offensivi, ha meno resistenza a comportarsi in una certa maniera rispetto a chi proviene da altre parti del mondo che ha meno resistenze a comportarsi in altre maniere. Dove non c'è meno resistenza, da altre parti per converso c'è ovviamente come dire, più facile. Allora, questo per dire cosa? Questo per dire che sicuramente noi come comuni abbiamo, come ho detto prima, opportunità diverse, risorse diverse, strutture diverse, condizioni diverse. Forse anche la pensiamo, anzi senza forse, come amministratori locali, come sindaci in maniera diversa. E possiamo dare delle risposte diverse. Qualcuno dice io mi faccio avanti e faccio, non so, cerco di essere partecipe in tempo utile per dare una risposta, qualche altro come sottoscritto dice mi faccio avanti in qualche maniera, non voglio essere, come dire, complice, no, di una gestione che non condivido del fenomeno migratorio, però è ovvio che se mi arriva il problema in casa da sindaco lo devo gestire, non posso girarmi da un'altra parte. Io dico soltanto non voglio essere io quello che se lo porta a casa. Do una risposta diversa, però ovviamente il fenomeno quando arriva, perché questi arrivano insomma a migliaia in certi periodi, no, 8.500 nel weekend di Pasqua, ovviamente hanno fatto festa e sono arrivati in quel momento lì, per cui arrivano, non possiamo far finta che non ci siano, quindi da qualche parte, come dire, cadono, vengono portati, qualcuno li deve anche, purtroppo, dico purtroppo, non per loro, dico purtroppo nei rapporti istituzionali, quando il prefetto dice tu te li devi cuccare, è semplice, è una soluzione più bella di sta terra, no, il problema è che chi se li deve cuccare se li deve poi anche gestire, deve trovare, si deve applicare, forse è il compito dei sindaci anche questo, per cui sicuramente abbiamo, come dire, motivi, opportunità e forse anche problemi diversi per affrontare il fenomeno, però quello che succederà non sarà legato al territorio del comune, ci metterà tutti quanti insieme, nel senso che io posso dare una risposta diversa o dare una non risposta, a differenza del sindaco, del collega sindaco di Campo San Martino, di quello di Curtarolo, però la società che ci troveremo di fronte, quello che verrà avanti, sarà la stessa a Curtarolo, sarà la stessa a Villa Franca e la stessa a Campo San Martino, perché purtroppo i confini amministrativi non fermano il fenomeno. È vero che ci sono comuni che non hanno ancora ospiti, definiamoli così, ci sono comuni che hanno ospiti, il mio comune non ha ospiti, però nel mio comune transitano quotidianamente ospitati da altre parti che si muovono, suonano i campanelli e chiedono l'elemosina. Ci sono, non possiamo far finta che non ci siano. Il problema vero è che sicuramente avremo in futuro una società multiculturale, multireligiosa. Ci saranno anche elementi di arricchimento. È ovvio, nel momento in cui ci sono altre persone che portano altre esperienze, altre intelligenze, altri modi di vita, si mettono assieme con i nostri e in qualche maniera si spera, ma sicuramente in alcuni casi, in molti casi, ci sarà un arricchimento anche di questa società, però dobbiamo anche essere convinti che ci sarà anche minore sicurezza, ci saranno anche più problemi. Io guardo anche gli Stati Uniti, che credo sia la nazione, come dire, multiculturale, multietnica per eccellenza, no, nel panorama mondiale. È vero che si è costruita in maniera diversa, però di fatto, oltre ad essere una grande democrazia, oltre a dare grandi opportunità, ha anche grandi problemi e ovviamente anche grandi, grandissimi, come dire, crimini. Per cui dobbiamo anche renderci conto che il futuro sarà un futuro sicuramente e completamente diverso da quello attuale. Avrà degli aspetti sicuramente positivi per i nostri figli, ma avrà sicuramente anche dei problemi più complicati e anche negativi sempre per i nostri figli. Grazie, Alessandro Salvatore. Grazie a tutti e tre i sindaci che si sono confrontati, hanno portato la loro idea, le loro convinzioni, le loro scelte. È un'opportunità sicuramente preziosa quella di questa sera. I giorni della Chiesa. Questa era l'ampia sintesi dell'incontro svoltosi il 5 maggio scorso a Curtarolo per iniziativa dell'Osservatorio sul territorio. Abbiamo sentito le voci del sindaco di Curtarolo Fernando Zaramella, di Luciano Salvò, primo cittadino di Villafranca Padovana, e di Paolo Tonin, sindaco di Campo San Martino. Introduzione curata dall'avvocato Marco Ferrero, moderazione a cura del collega Luca Bortoli, che salutiamo e ringraziamo. Grazie ai didaici in regia, da Mirko Cavallin a voi tutti. Buon proseguimento di ascolto. Giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.